Richiami verbali, richiami i tuoi cani. Meglio se continui i richiami dei tuoi vestiti carcani. La vita non è un gioco con ami. Qui non c'è Beltrami. Mangi merda spacciata per cioccolatini. Sperlare chiusi si pari della tua esistenza tsunami. Nel senso che piove sperma e tu giri nudo senza asciugamani. Vuoi fare gangsta con i sicari, che per una partita credi di andare al mondiale. Al massimo fumi verbali. In tasca più poligoni dei videogiochi Atari. Coristi orientali cambiano i tuoi piani. Oggi MC domani, chitarrista con gli intilli mani. La vista sparisce mami, come nei detti popolari. Non siamo credenti, bruciamo corani. Non sapete suonare, bruciate stradivari. Non conoscete gli incastri, bruciate origami. Non vi conosce nessuno, non siete rari. Dente per dente, bruciate cari. La tua tipa la fletti in orizzontale. Stupido sopra i binari, pretendi di fumare crack e di suonare crack. Prendi stupefacenti letali perché un giorno mi batti. Sì, magari.